Capitolo 37. Partito Mr. Crawford, Sir Thomas, come prima cosa, si adoperò a farne sentire la mancanza e sperò vivamente che la nipote, venendo a cessare quelle attenzioni che prima aveva considerato negativamente, provasse un senso di vuoto. Ora Fanny sapeva, per averlo conosciuto sotto la sua forma più lusinghiera, quanto fosse importante contare qualcosa. Ed egli sperava che l'essere privata di tutto ciò, il ricadere nel niente, avrebbe suscitato in lei più che salutari rimpianti. La osservò alla luce di questa idea, ma non gli riuscì di valutarne la possibile esattezza. Non seppe dire se in lei vi fosse una qualche differenza di umore. Era sempre così gentile e schiva che le sue emozioni erano al di là delle sue capacità intuitive. Non la capiva, sentiva di non capirla, e quindi si rivolse a Edmund affinché lo informasse sul come ella affrontava la situazione attuale, se era più o meno felice di prima. Edmund non leggeva nessun sintomo di rimpianto nella cugina e pensò che suo padre era alquanto irragionevole nel supporre che i primi 3 o 4 giorni dell'assenza di Harry potessero suscitarlo. Quello che destava vera sorpresa in Edmund era che la sorella di Crawford, l'amica e la compagna che era stata tanto vicina a Fanny, non fosse più palesemente rimpianta. Lo stupiva che Fanny parlasse così raramente di lei e avesse così poco da dire spontaneamente sul proprio rammarico per la separazione. Ahimè, era quella sorella, quell'amica e compagna che ormai come un veleno turbava la pace di Fanny. Se avesse potuto pensare che la sorte futura di Mary non avrebbe avuto rapporti con Mansfield, così come ne era fermamente decisa non ne avrebbe avuti quella del fratello, se avesse potuto sperare che il ritorno di lei sarebbe stato tanto lontano come era propensa a pensare dovesse esserlo quello di lui, si sarebbe sentita il cuore veramente leggero. Ma quanto più rammentava e osservava, tanto più profondamente si convinceva che ora la prospettiva di un matrimonio fra Miss Crawford e Edmund appariva assai più probabile che in passato. Da parte di lui l'inclinazione si era fatta più forte, da quella di lei meno incerta. Le obiezioni di Edmund, gli scrupoli nati dalla sua integrità morale, sembravano tutti spazzati via. Nessuno avrebbe potuto dire perché, e i dubbi e le esitazioni nati dall'ambizione di lei erano stati ugualmente superati, anch'essi senza un motivo apparente. La cosa poteva essere imputata a un accentuarsi della reciproca attrazione. I sentimenti buoni di lui e quelli cattivi di lei cedevano all'amore, e questo amore non poteva che unirli. Edmund doveva recarsi in città non appena sistemate certe faccende relative a Thornton Lacey, forse entro una 15 giorni. Parlava di quel viaggio e gli piaceva parlarne, e una volta che si fosse trovato nuovamente con Mary, Fanny non dubitava del risultato. L'assenso di lei doveva essere tanto certo quanto l'offerta di lui, eppure perduravano in sottofondo cattivi sentimenti che rendevano la prospettiva del futuro dolorosissima per Fanny, indipendentemente, così credeva, da considerazioni sue personali. Nella loro ultima conversazione, Miss Crawford, pur avendo suscitato in lei alcune amabili sensazioni, pur avendola trattata con molta gentilezza, era tuttavia rimasta la Miss Crawford di sempre. Aveva una volta di più dato prova di accettare un'etica sviata e alterata, senza sospettare minimamente che fosse così, obnubilata eppure immaginandosi illuminata. Poteva darsi che amasse Edmund, ma non lo meritava da nessun altro punto di vista. Fanny credeva che fosse difficile scoprire in loro un qualsiasi altro sentimento che li accomunasse all'infuori del reciproco amore, e la sua convinzione che un miglioramento di Miss Crawford fosse praticamente impossibile deve trovare indulgenza anche presso persone di più matura esperienza, se si considera quanto poco, in quella stagione d'amore, l'influenza di Edmund aveva potuto fare per illuminare il giudizio di Mary e per raddrizzarne la valutazione errata dei veri valori della vita. Era convinta che, anche se egli avesse investito in lei tutte le sue personali qualità, nei successivi anni di convivenza coniugale avrebbe avuto ben poca probabilità di essere felice. Naturalmente, un'esperienza più matura avrebbe ispirato migliori speranze circa il futuro di una qualsiasi giovane coppia che si trovasse in quella situazione, e una mente imparziale non avrebbe negato a Miss Crawford quel quid naturale che è parte di ogni indole femminile, induce la donna a fare le sue opinioni dell'uomo amato e rispettato. Ma poiché le convinzioni di Fanny erano quelle che abbiamo esposto, soffriva profondamente e non poteva sentir parlare o parlare lei stessa di Miss Crawford senza ricavarne grande pena. Sir Thomas, frattanto, continuava a sperare e a osservare in silenzio, sentendosi ancora in diritto, con tutta la sua conoscenza della natura umana, di aspettarsi che la nipote reagisse positivamente, cioè, secondo i suoi desideri, alla cessazione del piacere di sentirsi importante e che la privazione delle attenzioni dell'innamorato producesse il desiderio di vederle rinnovarsi. E poiché non molto tempo dopo constatò che quanto aveva sperato non si avverava completamente e inequivocabilmente, attribuì la cosa alla prospettiva di un'altra prossima visita. William aveva ottenuto altri 10 giorni di licenza da trascorrere nel Northamptonshire e stava per giungere il più felice dei tenenti, dato che lui era quello di più recente promozione, per far mostra della sua felicità e per descrivere la sua uniforme. Giunse, infatti. E sarebbe stato deliziato di far pompa di quella uniforme anche in casa dello zio, se una crudele usanza non avesse proibito di indossarla quando non si era di servizio. Così l'uniforme era rimasta a Portsmouth e Edmund congetturò che prima che Fanny potesse avere la probabilità di vederla, tutta la sua freschezza e tutta la freschezza della gioia di chi l'indossava sarebbero svanite. Sarebbe diventata un segno di ignominia, perché cosa può essere più disdicevole, più disprezzabile di un uniforme di tenente per chi, essendo tenente da un anno o due, ha visto promuovere altri al grado di comandante? Così congetturò Edmund, finché suo padre non lo mise a parte di un progetto che offriva a Fanny la possibilità di vedere il tenente in seconda della regia nave Thrush in tutto il suo splendore sotto una giusta luce. Secondo il progetto, Fanny avrebbe accompagnato il fratello quando egli fosse tornato a Portsmouth e avrebbe trascorso un po' di tempo in famiglia. L'idea era venuta in mente a Sir Thomas durante una delle sue dignitose riflessioni e gli era sembrata una misura giusta e desiderabile, ma prima di decidersi definitivamente consultò suo figlio. Edmund considerò la cosa da ogni punto di vista e non vi trovò nulla che non fosse accettabile. La cosa era buona in sé e non poteva essere realizzata in una migliore occasione. Quanto a Fanny, non aveva dubbi che le sarebbe riuscita altamente gradita. Ciò bastò per dissipare ogni dubbio del padre e un deciso "dunque sarà così" chiuse la prima fase del piano. Sir Thomas si ritirò con non poca soddisfazione, pensando ai probabili buoni risultati che si riprometteva e che andavano oltre e più in alto di quanto avesse comunicato al figlio, poiché il suo principale scopo nel far partire la nipote aveva pochissimo a che fare con l'opportunità del suo riprendere contatto con i genitori e assolutamente nulla con il desiderio di farla felice. Certo, desiderava che Fanny facesse quella visita volentieri, ma desiderava altrettanto che ne avesse fin sopra i capelli di casa sua, prima che la visita finisse, e che una breve astinenza dalle eleganze e dai lussi di Mansfield Park l'avrebbe indotta a più assennate considerazioni e resa incline a un più giusto apprezzamento dell'abitare per sempre la non meno agiata dimora che le era stata offerta. Era insomma un progetto inteso a far rinsavire la nipote che ora, pensava Sir Thomas, di saggezza aveva giusto bisogno. L'aver vissuto 8 o 9 anni in un ambiente dove regnavano ricchezza e abbondanza aveva un po' confuso la sua capacità di confrontare e di giudicare. La casa di suo padre, con ogni probabilità, le avrebbe insegnato il valore da attribuire a una larga rendita e confidava che l'esperimento ideato l'avrebbe resa più saggia e più felice poi per tutta la vita. Se Fanny fosse stata solita abbandonarsi all'euforia, ne sarebbe stata travolta quando si sentì annunciare quanto era stato progettato nei suoi confronti e udì lo zio che di persona le offriva di andare a far visita ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, dai quali era rimasta separata per quasi metà della sua vita, di tornare per 2 mesi sulla scena della sua infanzia con William come compagno e protettore durante il viaggio. E la certezza di continuare a vedere William fino all'ultima ora della sua permanenza a terra. Se mai si fosse abbandonata a manifestazioni di gioia, sarebbe stata quella la volta, poiché era come non mai piena di gioia. Ma la sua era una felicità pacata, profonda, di quelle che dilatano il cuore. E benché non fosse mai di molte parole, era tanto più portata al silenzio quanto più intensamente sentiva. Sul momento seppe solamente ringraziare e accettare. Più tardi, quando fu meglio familiarizzata con la certezza della gioia che così all'improvviso le si spalancava davanti, poté parlare più apertamente con William e con Edmund di ciò che provava, ma anche allora c'erano in lei tenere emozioni che non potevano essere espresse a parole. Il ricordo di tutte le sue prime gioie e di quanto avesse sofferto sofferto essendone strappata, la salì con forza rinnovata e le sembrò che ritrovarsi nella casa paterna l'avrebbe guarita da ogni pena derivata dalla separazione. Ritrovarsi al centro di quella cerchia, sentirsi amata da tante persone e da tutte più amata di quanto lo fosse mai stata prima di partire, contraccambiare l'affetto ricevuto senza timore e senza remore, sentirsi l'uguale di coloro che la circondavano, essere al riparo da qualsiasi menzione del nome dei Crawford, di qualsiasi sguardo che potesse sembrarle un muto rimprovero fattole per causa loro, questa era una prospettiva da pregustare con un piacere che ella poteva ammettere solamente a metà. E Edmund, anche stare 2 mesi lontano da lui, e forse le avrebbero permesso di prolungare l'assenza di un altro mese, le avrebbe fatto bene. Trovarsi lontana, non sollecitata dalla vista di lui o dalle sue affettuose gentilezze e al riparo dalla perpetua irritazione che le veniva dal conoscere il suo amore segreto, libera dallo sforzo necessario per evitare le sue confidenze, avrebbe dovuto permetterle di raggiungere a forza di ragionamenti un più saldo equilibrio interiore. Sarebbe riuscita a immaginarlo a Londra, intento a sistemare ogni cosa laggiù, senza risentirne alcuno strazio. Quello che a Mansfield sarebbe stato duro sopportare, sarebbe parso un male minore a Portsmouth. L'unico inconveniente era il dubbio che la zia Bertram non si sentisse a suo agio senza di lei. Non era utile a nessun altro, ma la zia poteva mancare fino a un punto a cui non voleva pensare. In effetti, questa parte del progetto fu per Sir Thomas la più difficile da portare a compimento, anzi, quella che solo lui fu in grado di condurre in porto. Ma a Mansfield Park era lui il padrone. Quando aveva preso una ferma risoluzione su una qualsiasi misura da adottare, sapeva sempre imporla e ora, a forza di parlarne lungamente, di spiegare, di insistere sul dovere che Fanny aveva di andare a trovare qualche volta la sua famiglia, indusse la moglie a lasciar partire la nipote, ottenendone l'assenso più per sottomissione che per convinzione. Perché di una sola cosa Lady Bertram era certa, Sir Thomas pensava che Fanny doveva andare e quindi sarebbe andata. Nella calma del suo spogliatoio, nel flusso imperturbato e indifferente delle sue riflessioni, per nulla influenzata dalle sbalorditive dichiarazioni del consorte, non riusciva proprio a vedere che necessità avesse Fanny di recarsi presso un padre e una madre che avevano fatto meno di lei per tanto tempo, mentre invece era così utile lì in casa. Quanto al fatto che lei non ne avrebbe sentito la mancanza, come Mrs. Norris tentò eloquentemente di dimostrarle, rifiutò recisamente di ammettere una simile cosa. Sir Thomas aveva fatto appello alla sua ragione, alla sua coscienza, alla sua dignità. Riconobbe che era per lei un sacrificio e appellandosi alla sua bontà e al suo autocontrollo le chiese di compierlo proprio in quanto sacrificio, ma Mrs. Norris voleva persuaderla che di Fanny si poteva benissimo fare a meno. Lei naturalmente era pronta a dedicare alla sorella tutto il proprio tempo quando glielo avesse chiesto. E in breve, che non ne poteva avere alcun bisogno, né poteva sentirne la mancanza. «Può darsi, sorella», fu tutto quanto rispose Lady Bertram. «È probabile che lei abbia assolutamente ragione, ma sono sicura che a me mancherà molto». Il passo seguente consistette nel mettersi in contatto con Portsmouth. Fanny scrisse per offrire di recarsi dai suoi e la risposta della madre, benché breve, fu così affettuosa, poche semplici righe che esprimevano una gioia così naturale e materna alla prospettiva di rivederla, da confermare tutte le aspettative di felicità della figlia al pensiero di ritrovarsi vicino a lei, convincendola che ora avrebbe incontrato un'amica calda e affettuosa nella mamma, che in passato non le aveva certamente dimostrato una speciale tenerezza, ma supponeva Fanny la colpa era stata sua o si era trattato della sua immaginazione. Probabilmente si era alienata l'amore materno con la debolezza e l'irritabilità di quella sua indole pavida, o era stata irragionevole nel pretendere una parte più grande di quanto potesse aspettare a chiunque di loro, numerosi come erano. Ora che sapeva meglio come rendersi utile e come essere paziente, e che sua madre non era più costantemente presa dalle esigenze di una casa piena di bimbetti, vi sarebbero stati il tempo e la propensione per ogni reciproco scambio, e presto sarebbero state quello che madre e figlia dovrebbero sempre essere l'una per l'altra. Quel progetto rese William felice quasi quanto sua sorella. Sarebbe stato il più grande dei piaceri averla con sé fino al momento di far vela, e forse trovarla ancora lì al ritorno dalla sua prima crociera in veste ufficiale. E desiderava tanto che vedesse la Thrush prima che uscisse dal porto. La Thrush era certamente la più bella corvetta in servizio. Inoltre erano state fatte varie migliorie nell'area dei cantieri e desiderava moltissimo mostrare alla sorella. Non si fece scrupolo di aggiungere che un suo soggiorno in casa sarebbe stato di grande vantaggio per tutti da molti punti di vista. Non so come sia, disse, ma sembra che in casa di mio padre occorra a tutti noi l'esempio dei tuoi bei modi e del tuo senso dell'ordine. La casa è sempre sottosopra. Tu avvierai tutto in un modo migliore, ne sono certo. Dirai a mia madre come tante cose vanno fatte e sarai così utile a Susan con i tuoi consigli e insegnerai a Betsy a comportarsi educatamente e ti farai voler bene, ti farai ascoltare dai ragazzi. Tutto andrà bene e piacevolmente. Dopo l'arrivo della risposta di Mrs. Price, le rimasero pochissimi giorni da trascorrere a Mansfield e per la metà di uno di quei giorni i due giovani furono in grande allarme circa la buona riuscita del loro viaggio, poiché quando si venne a parlare del modo in cui compierlo e Mrs. Norris scoprì che tutta la sua ansietà di risparmiare il denaro del cognato Ravana e che a dispetto dei suoi desideri e dei suoi suggerimenti, perché Fanny si servisse di un mezzo di trasporto meno costoso, avrebbero viaggiato con cavalli da posta, quando vide coi propri occhi Sir Thomas che dava a William polizze di pagamento per le spese, fu colpita dall'idea che vi era posto per una terza persona nella vettura e la prese all'improvviso un gran desiderio di andare con loro, di rivedere la sua povera cara sorella Price. Ne palesò il proposito. Doveva proprio dire che aveva fatto più di un mezzo progetto di andare con i nipoti. Sarebbe stato un così grande piacere per lei. Erano più di 20 anni che non vedeva la sua povera cara sorella Price. E sarebbe stato un aiuto per i giovani avere durante il viaggio l'appoggio che la sua mente più matura era in grado di offrire e non poteva fare a meno di pensare che la sua povera cara sorella Price avrebbe trovato assai poco gentile da parte sua non approfittare di una simile opportunità per andare. William e Fanny restarono inorriditi a quella possibilità. Tutte le prospettive di un confortevole viaggio vennero distrutte di colpo. Si guardarono l'un l'altro con aria desolata. La loro incertezza comunque durò un'ora o due. Nessuno si mise di mezzo per incoraggiare o dissuadere la zia e Mrs. Norris fu lasciata a sistemare la cosa per proprio conto. E alla fine, con grandissima gioia dei nipoti, comunicò di aver avuto un ripensamento. A Mansfield Park in quel momento non si poteva fare a meno di lei, e lei era troppo necessaria a Sir Thomas e a Lady Bertram per lasciarli anche per una sola settimana, perciò doveva senz'altro sacrificare ogni altro piacere al dovere di rendersi loro utile. Di fatto, le era venuto in mente che, benché portata a Portsmouth senza spese, le sarebbe stato ben difficile non pagare di tasca propria il viaggio di ritorno. Così la sua povera cara sorella Price fu abbandonata a tutta la delusione di perdere l'opportunità di rivederla e un altro periodo di separazione di 20 anni forse ebbe inizio. I progetti di Edmund furono alterati da quel viaggio a Portsmouth che comportava l'assenza di Fanny. Anche lui, come la zia, doveva fare un sacrificio a Mansfield Park. Aveva avuto l'intenzione di recarsi a Londra su per giù in quell'epoca, ma non poteva lasciare anche lui suo padre e sua madre, proprio quando tutti quelli, dalla cui presenza dipendeva massimamente il loro benessere, li lasciavano, e con uno sforzo che risentì assai, ma di cui non diede nulla a vedere, rimandò ancora di una o due settimane un viaggio che era impaziente di compiere, poiché sperava che da esso dipendesse tutta la sua felicità. Ne parlò a Fanny. Lei sapeva tante cose che doveva essere messa al corrente di tutto. La comunicazione diede spunto a un altro confidenziale elogio di Miss Crawford e Fanny fu penosamente colpita dalla sensazione che quella fosse l'ultima volta che il nome di Miss Crawford veniva liberamente menzionato fra loro. Solo una volta dopo quella egli vi fece allusione. Durante la serata Lady Bertram aveva detto alla nipote di scriverle subito appena arrivata e in seguito molto spesso e aveva promesso di essere anche lei una buona corrispondente. Ed Edmund, approfittando di un momento propizio, le aveva sussurrato «E io ti scriverò, Fanny, quando avrò qualcosa che meriti di essere letta, quando avrò qualcosa da dire che penso desidererai sapere e di cui non avrai tanto presto notizie da nessun'altra parte». Anche se avesse dubitato del significato di quelle parole mentre ascoltava, l'animazione che notò sul viso di lui quando ella sollevò lo sguardo sarebbe stata sufficiente a illuminarla. In vista di questa lettera, doveva tentare di armarsi spiritualmente, che una lettera di Edmund dovesse essere per lei motivo di terrore. Cominciò a rendersi conto che in lei non si era ancora compiuto tutto il cambiamento di opinioni e di sentimenti che si era riproposta e che il procedere del tempo e il variare delle circostanze non sempre producono in questo nostro mondo mutevole. Non era ancora passata attraverso tutte le vicissitudini dell'animo umano. Povera Fanny, benché partisse come faceva spontaneamente e piena di ardore, l'ultima serata a Mansfield Park doveva essere tutta desolazione. Al momento della separazione il suo cuore era profondamente triste. Ebbe lacrime per ogni stanza della casa e ancor più per ciascuno dei suoi diletti abitanti. Si aggrappò alla zia di cui avrebbe sentita la mancanza. Baciò, scossa dai singhiozzi, la mano dello zio, perché sapeva di averlo deluso, e in quanto Edmund non poté né parlare né guardarlo, né pensare, quando giunse l'ultimo momento con lui. E solo dopo che tutto finì seppe che si era congedato da lei affettuosamente come un fratello. Tutto questo si svolse di sera, perché il viaggio doveva avere l'inizio l'indomani mattina assai per tempo, e quando il piccolissimo, ridottissimo gruppo si riunì per la prima colazione, si parlò di William e di Fanny, che già avevano coperto la prima tappa del loro viaggio.